il circuitato e quei vari componenti, ecco, ma adesso questo è stato tolto quel problema lì, nel senso che quando me l'ha messo a posto Fabrizio mi ha tolto tutto, quella porcheria che c'era dentro, e non si dovrebbe verificare, almeno spero di no, non succeda di nuovo come succedeva, come era successo tempo fa. E poi se considera anche questo, che la radio quanti anni avrà questo, 20 anni, 25 anni, l'ha usata tu, l'ha usata Franco, la sto usando io e va sempre alla grande, per cui va benissimo così, io mi ritengo soddisfattissimo, guarda, ho già alcuni anni, non lo so, forse 4-5 anni, è preciso, non lo so, però mi sta andando abbastanza bene, all'infuori di quella volta che erano venuti fuori tutti questi punti eccetera eccetera, ma niente di particolare, e poi la lasciavo un quarto d'ora, 20 minuti accesa, così si riprendeva, però non era certamente il modo in cui dovevo funzionare la radio, questo è ovvio, vai qua. Sì, ma poi te lo rifacevo, non è che ogni volta accendi la radio, appena l'accendi a freddo appaiono i puntini. Non è appunto un sistema quello, ma poi te lo fa, quello è il campanello d'allarme, inizia così, poi ti si spegne, la puoi lasciare anche tutto il giorno accesa, a me aveva iniziato così, io uscivo la mattina alle 6, l'accendevo, così quando arrivo è a posto, invece arrivavo a casa alle 2:30 ed era sempre con i puntini, alla fine non ce la faceva più, capito? No, ma ti si abbassano le tensioni, non è questione di... E quando tu vedi i puntini, o per dire appena l'accendi lampeggia con i puntini e poi si riprende, le tensioni sono già da rivedere, sono già da rifare, non è un problema di isolatori eccetera. Io questa da poco, proprio sarà un mesetto fa, 2 mesi fa, l'ho aperta e su quella parte lì l'ho tutta pulita con la trinina, tutta pulita con la trinina, capito? Fabrizio mi ha detto come fare le tensioni, anche se io non le ho fatte perché non ho l'attrezzatura adatta, però vogliono sempre riviste le tensioni, ogni tanto ci vuole manutenzione, soprattutto le tensioni tutta della parte del VCO, perché altrimenti te lo rifà, e non te lo rifà perché c'è mondezza di ceratura, te lo rifà perché si abbassano le tensioni sul VCO, quindi vanno ricontrollate e rimesse le tensioni giuste, perché si abbassa, cosa che il 430, essendo più meccanico, non lo fa questo difetto, capito? È un muletto come il 140 e il 680, a parte la sua bella ricezione e trasmissione che ha, tutto qua, vabbè, comunque. Io ti dico solo che di 440 questo è il 16esimo, conta 16esimo, quindi posso avere l'esperienza. Ho sempre dato, poi ripreso, perché con altre radio non mi trovo, sia col 140, col 680, sono dei baracchini a sintonia continua. Quelli sono veramente dei muletti, però sono dei baracchini a sintonia continua. Rumorosi, non hanno niente, questi slider, queste cose, non hanno filtri, hanno questo noise blanker e basta, mentre il 430 e il 440 sono già delle radio un po' più performanti, tutto qua. Avanti California. Ma se conferma, se conferma. Ma io ho tutta la linea qua. Tutto qua. Il troppo. Ma c'ho anche il magno io, capito? Ma non lo uso quasi mai il magno. Anche perché l'ecco non è che mi piace più tanto. Mi piace questa come radio. Va meglio, non prende colpi, questa c'ha i filtri, c'ha tutto, capito? Filtri non vanno da lì, va l'NB e boh. Filtri ce li ha al 430 e 440. Eia, va bene, io ce li ho tutte e tre, Franco, ce l'ho 30, il 40 e il 140. Volevo anche ritirare un 80, ma non me ne faccio niente, tanto per i 6 metri c'ho gli altri radio. C'ho tutto io, linea completa di tutto, c'ho anche un altro alimentatore PS50 dentro l'armadio, figurati, completa ce l'ho del 430, c'ho il 430, la colonnina sua, l'SP430, quella grigia, il PS430 che è il suo alimentatore, mentre il 440 che c'è il PS50 che è dentro l'armadio, perché non ci sta la colonnina del 440. E poi avevo anche la T250, poi il 140, ma l'avevo dato a Benito, non me ne faccio. radio. Dimmi. Ti ho mandato una foto, guardala, che non ci può, non ci posso credere. Adesso la guardo, vai Giulio. Ok, qua. Sì, beh certo, indubbiamente, diciamo che tu ne hai avuto tantissime di 440, certo, però il solo fatto che mi stai dicendo che ne hai avuto 16 vuol dire che una certa fiducia ce l'hai anche nel 440, se no non l'avresti ricomprato e rivenduto e ricomprato ancora e così via. E io ti sento molto spesso che col 440 evidentemente è una cosa che ti sta al cuore, questo non ci sono dubbi, per cui è una radio che funziona discretamente. Avanti di Cardi, cosa stai combinando? Niente, sono... L'hai vista qua? Sì, sì, ho visto, bel cavo. Sì, Giulio, ma ti rispondo tranquillamente. Sono talmente affezionato che nonostante i difetti che mi possa causare, le spese che porta, perché io l'ho riparato da Bianconi tre volte, e due volte ha riparato Fabrizio, quindi nonostante tutto ciò ci sono affezionato tantissimo, te l'ho già detto, avendone avuto 16 penso che ci sono affezionato e ci modulo quasi tutti i giorni, a meno che non usi il baracchino eccetera, ma il cambio io faccio, non ve ne accorgete, perché io ho 2,60 separati, quindi comodo, passo col 4,30, capito? Quindi non cambia niente per me, però ci sono talmente affezionato che non riuscirò mai a disfarmi di questa radio, perché è una radio eccezionale, è una radio che a me piace, una radio che funziona bene quando deve funzionare bene, capito? Però se andiamo a fare le comparazioni proprio minime per quello che posso dire io e quello che puoi dire tu, io da radioamatore, tu da CB, io in banda amatoriale preferisco il 430 perché è più selettivo, è molto più silenzioso, capito? Va bene. Cosa... perché questo cavo, Ricca? No, te l'ho mandato così per se mi interessa anche a voi. Io ne devo prendere un po' perché adesso la devo mettere su casa perché sto facendo il buco per farmi entrare tutti gli apparati. Per far entrare il cavo giù per la colonna entro casa e mettermi e attaccarle all'apparato. Interessante, 213, quello a bassa perdita Giulio, quello che c'ho nell'elenco che mi hai dato tu a 0,95 centesimi al metro, è interessante il prezzo, no Giulio? Caspita, 0,95, 213, caspita, un prezzo più che buono, già lo credo, nemmeno l'LG58 gira compra quel prezzo, anzi, stessa geologia, perché se vuoi la GBC a prendere l'LG58 te lo fa pagare oltre un euro, te lo fa pagare, sicché 0,95 è un Giulia che è buono come prezzo, alla grande. No, io con questo l'avevo pagato 2,50 al metro, l'avevo pagato la Camille, e ne avevo preso 25 metri, 62,50 euro, una cosa di 62,50, una cosa del genere, era venuto, me ne ricordo, ma ormai c'erano già alcuni anni, per cui va bene, io l'ho controllato anche ieri, sul tetto ho visto tutto per vedere com'era, se gli avevano fatto qualche difetto il sole, ad esempio, dell'estate, nulla, è perfetta, l'isolamento, la guaina è perfettissima, è veramente un gran bel cavo. L'unica inconveniente che trovo che è un po' rigido e dunque devo adattarmi come l'attacco al baracchino, perché se no c'è il baracchino alla radio, perché se no è un problema il fatto della rigidità di questo cavo, però uno si sistema le cose come devono essere sistemate, va ugualmente bene, anzi va alla grande, altro che. Avanti Franco, è sparito, avanti Ricca. Sì, già va bene, Giulio, te l'ho mandata anche a te la foto comunque. Ok, io Ricardi, adesso lo guardo, vediamo a quale telefono me l'hai mandato, sia questo che ho qua o a quello che è giù dopo. Adesso lo guardo Ricca. Sì, anch'io la Camille l'ho pagato a 2,50 euro, poi ne ho preso una matassa da 50 metri. Da 50 metri, sempre su, vabbè, non su internet, una ditta di fuoco. Va bene, va bene. No, caspita, è importante. Chiedi se serve a qualcuno, magari gli ordini un po' di più e poi ti fai dare i soldi e glielo dai, ricca, perché è 95 centesimi a metro quel tipo di cavo lì, con la doppia calza e il centrale rigido, è molto, molto interessante. Io ce l'ho così, però ne ho spezzoni piccoli che vanno dalle antenne alla centralina del commutatore elettronico più sul tetto, capito? Quindi però è un buon cavo, mentre di discesa io ho la H1000, ho 35 metri di H1000. Va bene, va bene. California, non riprende, riprende Ricca. Sì, va bene. Comunque, se troviamo diverse cose a questo sito perché ho visto i prezzi che erano molto buoni. È buono sì, ma stai scherzando. 95 centesimi è buonissimo, perché a Sassari 213 mi pare che lo stanno dando a più di 2 euro. Non so se a 2,20 euro, a 1,80 euro, 2,30 euro, 2,40 euro, non lo so, non mi ricordo. 95 centesimi non compro neanche le regi 58, tranquillo. Avanti Giulio. Ok, sì, sì, ricordi dall'altro telefono, mi aveva dato dall'altro telefono che ce l'ho giù, dopo lo guardo il cavo, la fotografia del cavo, ricordi, e nell'altro telefono, anzi, a dire la verità è nel tablet, dai, che anche quello funziona come telefono, per cui e quello ce l'ho giù, perché sempre lo utilizzo la sera, mi guardo diverse cose. Dopo scendo e lo prendo, lo guardo quel cavo. Comunque il 213 è un ultimo cavo, hai fatto bene a comprarlo. Ma cosa hai fatto? Hai recuperato i soldi del microfono e ti sei fatto dare quel cavo, cosa hai fatto? No, questo è un altro sito per il microfono, l'ho preso a questo sito, mi ho ordinato quelli di Cesaro e praticamente l'ho ordinato questo, l'ho pagato 70 euro nuovo, proprio, e se me l'hanno spedito dopo un'ora, dopo che un'ora che l'avevamo fatto il pagamento, e quindi dovrebbe arrivare oggi più o meno. Ho capito, hai fatto bene Ricca, è così che si fa, e allora non si può stare un mese, due mesi aspettando una cosa, ma quando mai, caspita, claro, ma te ne rendi conto, adesso non perché davanti Riccardo, però sta dando un esempio a tante persone adulte anche sta dando, già mi capisce cosa intendo dire o qua. Lo so, Riccardo è un ragazzino che però ha un ragionamento molto logico nel fare le cose, è molto attento, molto preparato, è seguito molto dal padre e quindi è giusto così. E io te l'ho pagato, non va bene, o me lo dai subito, se vuol dire devi aspettare un mese, due mesi, dammi i soldi e ha fatto bene. E se ne ha comprato un altro da un'altra parte. No, già è attento, io l'ho conosciuto, è togo, attento, c'è una passione allucinante sulla radio, le piace avere tutte le cose necessarie e fa bene, fa benissimo, non c'è problema. Adesso vedrai che appena le rientra la sua radio, esce bene, usa quel microfono che gli ho dato io, intanto io non lo stavo usando, e va bene così, non c'è nessun problema. Vai Riccardi, hai fatto bene, hai fatto bene. Non me lo dai, mi fa la restituisci, mi sono che vado da un'altra parte, ah, vado giù, non ce l'ha. fai? È così che si fa, allora, caspita, non lo so più. C'è gente, ragazzi, che sta decidendo per mettersi uno straccio di antenna in casa, è mesi, anzi c'è qualcuno che ha anni anche per sistemarla come si deve l'antenna e ancora non ci sono riusciti. E visto Riccardo, in pochi giorni, ragazzi, si è piazzato la stazione di lusso, si è piazzato l'antenna, addirittura comprandone due, perché la prima non è andata molto bene, la seconda è eccezionale, va benissimo. E fa bene, è così che si comporta una persona intelligente nella vita. La gente adulta per uno straccio di antennino, ora di antenna, sono mesi e mesi che si fanno, non riproverare, però facci notare che l'antenna non va, che la radio non arriva e la gente ancora non ha capito. Boh, cosa vuoi dire qua? D'altronde, ripeto, per quello che ho detto, Riccardo sta dando un esempio anche a persone adulte, sta dando tutto lì. Vediamo se Franco è rientrato. Franco? No, non c'è, vai qua. Certo, ma io anche l'altro giorno a Nicola glielo detto. A Nicola. Glielo ho detto, cioè, ma non è possibile, ho comprato questa antenna, l'ho messa nel poggiolo, sul tetto non posso mettere. No, cosa l'hai comprata a fare? Cosa l'hai comprata a fare per metterla nel poggiolo? Tanto arrivi più basso, mettere mano sul tetto, assolutamente. Se devi fare radio ti devi far sentire, se poi devi fare radio solo per ascoltare, allora sono problemi tuoi. Uno quando non sente è brutto, o quando il segnale è basso, è brutto perché non ne vuoi che bevi, però purtroppo, io che ti dico, magari non tutti hanno la possibilità di montare l'antenna sul tetto, c'è chi si fa anche serie mentali, ma il condominio qui, ma il condominio qua, il diritto all'antenna è un diritto a livello nazionale, nel senso che è un diritto, capito? È un diritto. Io l'antenna la devo piazzare perché ho una concessione governativa, tra l'altro rilasciata dal Ministero, quindi tu mi devi dare a me la possibilità di montare l'antenna, perché altrimenti se vai in causa la perdi, non c'è niente da fare. Quindi meno male noi non abbiamo mai avuto di questi problemi, nonostante io sia il condominio, guarda, da quando sono arrivato qua dall'85, la prima cosa che ho fatto, io vabbè ero al nono piano, quindi ho buttato il cavo dentro la finestra e via, ma anche quando sono sceso al secondo piano, ho fatto i lavori a norma di legge, senza rompere scatola a nessuno, e nessuno mi ha detto niente, nulla. Assolutamente, perché è un diritto sacrosanto, assolutamente. Vai Ricca. Ok, adesso come detto mi devo mettere questa roba qui dentro, perché cioè, quando fa freddo qua fa freddo, e adesso che c'è caldo mi sto attaccando le ventole, spero che non diano fastidio all'apparato o al barattino. Beh, registrato il break, e beh lì c'è caldo l'estate, però Roberto, appunto abbiamo visto Roberto lì in garage, una bella scrivania per te già pronta con i ripiani, capito? Un mobile fatto a ripiani, già molto bello, quello lo puoi portare dentro, ti metti le radio, capito? Ti metti le radio e quindi ti sposti da lì, perché lì va bene, magari d'inverno, non lo so, ma d'estate lì muori dal caldo, quindi fatti la stazione radio dentro. Avanti break. Buongiorno, vorrei sapere se c'è quel cuocuomane di Riccardino. Sì che c'è, te lo passo, avanti cuocuomane. Via quel cuocuomane di Natalino. Ah, cosa mi ha detto? Sentito la cosa mi ha detto Riccardino. Ciao Natalino, ben entrato. Guarda che già sa rispondere, non ti preoccupare. Altro che avanti Natali. E ciao Giulio, ciao Claudio, ciao Riccardo. Già lo credo, lo provoco apposta io. E chi è questo? No, questo non lo facciamo entrare, vero qua? No, non lo facciamo entrare questo, non lo sentiamo questo qua, Claudio, non lo facciamo entrare, vai. Questo è un altro cuocuomane due, avanti, occhio giù. Buona giornata a tutti, buongiorno, vai. Dottor Ru da questa parte, ciao Riccardino, Natalino, Claudio e Giulio, dai, pure non ho sentito nessun altro acceso in questo momento, dai. Vi saluto tutti cordialmente, avanti. Natale c'è anche già. Che c'è? Natalino, Natale! Ho salutato Natalino. Ah, allora ero distratto io. Ci dovrebbe essere anche Franco California, se riprende, perché ogni tanto cade dalla sedia. Vediamo se c'è. Avanti Franco California, ci sei? Ci sono, sto facendo delle cose che riprendo subito. D'accordo, siamo qua. Bene, bene. Avanti Natalino per Gianni che è appena entrato. Ma ti hai rilanciato? C'è una tensione sul canale 10. Avanti, attenzione sul canale 10. Ascoltate Alfa 1, provincia Bari, cambio. Cap, Alfa 1, ti ascoltiamo tranquillamente, dai. Mi sentito, la stazione Doppio Room in compagnia di altri amici, dai, avanti Riccardino, tu fai girare. Ok, comunque saluto a te Gianni e a Natale, il Natale comunque. Ma volevo chiedere, senti molto il rumore delle ventole perché sto morendo dal caldo? No, non si sente nulla Riccardo. Ah ok, no. Chi è che è entrato Gianni, che non l'ho sentito? Ma fuori sono entrati, ma vediamo un po', c'è l'amico sul canale 10? È propagazione, già, se vuoi entrare già entra. No, Ricca, lascia così già, va bene, si sente appena, la sento io, ma non c'è problema, non mi dà fastidio, capito? Claudio, questa microfonia dov'è? È quella di ieri, ti ho detto che va benissimo. No, questo è un altro microfono, è quello che ho fatto io. Va bene, ottimo per la truppa. Ma va bene già va bene, appunto dimmi. E dunque, ho pensato di non farti entrare, ma mi hai considerato che sei un amico, allora ti accetto ben volentieri e mi fa piacere parlare con te. E non ti mettevo la portante d'oro. Ah, vedi cattivo, ma dai, vedi cattivo sì, non c'è niente da fare. Natalia, te ne mai devi a questo Gianni? Quando fa così tu mettigli la portante di cacciofo. Papà, è passata quella persona, Natalia. Cosa? Ho detto passata quella persona, Marco. No, negativo. Mi ha detto che era abbassata da me, allora l'ha chiamato la moglie mentre stava venendo. Mi ha detto adesso passo da Natalino che gli devo portare una cosa. Già è vero che mi doveva portare una cosa, però non c'è passato qua, o non ha trovato posteggio, oppure Rosy l'ha chiamato. Rosy Bindi l'ho tratta. Riprendete un minuto, che io devo fare una telefonata. Mi hanno fatto un massaggio da Olbia, voglio capire cosa è successo. Riprendi Giulio. Ok, qua. Sì, va bene, siamo qua. Cosa volevo dire? C'era uno che stava chiamando a noi dalla Sardegna, già. Vabbè, poi tu l'hai sovrastato parlando con Natalino, è giusto che sia così. Ma noi stiamo facendo questo locale. Anche poc'anzi ci hanno fatto delle chiamate, comunque a noi adesso in questo momento ci interessa praticamente il consiglio locale. Siamo già in quattro, io, tu, Natalino, Claudio e Riccardo, per cui siamo già in consiglio locale. Avanti Riccardo. Ok, mi stanno sempre chiamando, visto che sono in campagna. Devo andare a controllare i cani, stanno protetto. Ciao Riccardo, sì, già va bene così, perché tutti quelli che hai salutato, ok, avanti Massimiliano. Ok, dai, buongiorno a tutti, buongiorno da me, dai, e da voi. Buongiorno, sto provando quell'aggeggio che ti ho mandato, Giulio, come va? È buona la radio, satura? No, no, assolutamente, capita come va. 9 più 25, la radio è perfetta, mette la linea massima, già, bello, bello. Un bello aggeggio, chiamiamolo così, aggeggio. Ti mando avanti Gianni, così anche lui ti dice qualcosa riguardo la radio. Vai Gianni. Saluto anche a Bulldozer, ciao Massimiliano, anche saluto anche a te, a più tardi. Ciao Riccardi, mi dai un segnalito lì da te, dai. Buongiorno, anche ben sentito. Ok, va bene. Grazie mille, ciao, avanti che tocca. Riprendo io, dai, Natale in Alfa 1, ciao. Massimiliano, ciao Riccardi, ci sentiamo più tardi. Avanti Gianni. Venga, dai, ciao Riccardi, ci sentiamo, ciao Massimiliano, ben entrato, buongiorno, avanti. Venga, ciao Natalino, ciao Gianni e ciao a tutta la ruota, dai. Sto provando un aggeggio, volevo capire se saturava o meno, dai, se andava bene. No, va benissimo, se sei attaccato adesso va bene. Va benissimo, cala cala. E questo microfono come lo senti tu? Bella radio, bellissimo. Cala cala, va bene allora. Adesso se riesco a mettere a posto un'altra cosa, lo metto a posto e ci applico anche quello. Voglio vedere se esce meglio, va. Capo. Ok, va bene, chi c'è ancora? Io, allora Giulio, non ho fatto nessun ascolto, quindi non so neanche chi c'è, va. Avanti a chi tocca. Ok, dai, io chiamo Franco California, che è indaffarato, però ogni tanto già fa la sua apparizione in frequenza. Avanti Franco California. Ma magari non mi sente Franco, boh. Già ti sente, grazie, se ti sente, altro che se non sente a te, allora figurati se può sentire me o qualche altro. Allora prima, grazie media. Poc'anzi ci stavamo criticando che usi le radio potenti, perché io ho detto che non li sai usare. No, volevo dire il contrario. Non so se l'ascolto, comunque abbiamo chiacchierato un po' con Claudio, dai. Già hai capito che sto scherzando. Alla grande, Massimiliano, ripeto, 9 più 25, modulati che se ne va vicino, non ci arriva, ma vicino al 30, a questo smitter, per cui ultimamente bene, radio perfetta, per cui niente da dire, nonostante la vicinanza, eccetera. Bene, riprendi. Creo Giulio, sì, buongiorno, là. Niente, a me queste radio mi piacciono e non c'è niente da fare, però magari bisogna che... No, non l'ascolto perché c'era mia figlia in videochiamata, quindi non potevo stare alla radio. Mi piacciono, giuro, io però magari quando faccio QSO, anche se uso la stessa radio, chiudo tutto e uso senza eco, senza niente, mi piace anche farlo così, il QSO. Però quando vado dove tu sai, a me mi piace battagliare, quindi... Mi piace anche l'altro tipo di modulazione, ecco, non mi disturba né una né l'altra, ecco, mi piacciono sia una che l'altra. E vabbè, cosa vuoi fare? Non è che puoi stare tutto il giorno facendo questo con la radio con lei, io se volete te l'accendo, guarda. E siamo tutta lì così, no. Preferisco tenerla spenta e boh. Ma è quello che ho sottolineato un po' poc'anzi, sia io che Claudio, è quello che ho sottolineato. Dice, ma se Massimiliano ce l'ha quel tipo di radio, va bene, però almeno la sa usare nel momento giusto, nel momento propizio, non quando si fa questo locale, è quello che abbiamo sottolineato, sia io che Claudio poc'anzi, o Massimiliano, ti abbiamo criticato in questo modo, per cui vedi bene. Che le critiche alle volte non ce le nascondiamo, perché ce le facciamo anche notare. Vai, Massimiliano, vai, fai girare tu, vai. Ma non lo chiamare a Natalino, cosa lo chiami a fare? Chiamalo subito, vai. Vai, Massimiliano. Adesso ho sganciato, già va bene così per fare questo, non c'è bisogno, era giusto una prova. Va bene, riprendi Natale, io mi mi stacco un secondino, scusate un attimo, io sono un po' qua, un po' là, mi stacco un secondo. Va bene, Matteo, vai Natali. Ma lì non c'è ufficiali dell'arma dei carabinieri. Stai, ho sentito di più la signora Concetta, più di te l'ho sentita. Vabbè, vai Gianni. Ciao Concetta, l'hai sentita. Il paese, Ruba il microfono all'Apparino. Mi ha sovrastato sul microfono, già, te ne sei reso conto? La moglie l'ha sovrastato a Natalino con quel microfono. Cappagappa. Oh, Giulio. Vabbè, non volevo disturbare nessuno, volevo provare questa cosa per vedere se c'è canali di su questo apparecchio e canali di sotto. Puoi provare a dare 10 sopra a vedere se mi senti. Andare 10 sopra? Canale 20? Sì, 10 sopra. Andiamo 10 sopra, praticamente qua, canale 50 vuoi dire, già. Sì. Sì, andiamo, non c'è problema, dai. Gli amici che sono all'ascolto torniamo subito. Un attimino e facciamo questa prova. Va bene già, io ci sto già andando, dai. Un attimo solo, vai. Eccolo qui, io sono tornato qui. Ci siete? Ok, io ci sono, sì. Vediamo se c'è Natalino. Natalino, io grazie per aver attinto in questo momento, più tardi di oggi. Natalino. Ma che lo sta facendo? Non ho capito che cosa sta facendo la gola. Oh, è bene, perché intanto cosa vuol fare questi giorni già? Tutto è mangiare. Abbassa giù. Tombe di modulazione, abbassa il mic. Uè, Eugenio. Vabbè, tutto ok, guarda questo microfono, come sta andando? L'ho piazzato lì, dai. Il DM1000, il Proxel. Va bene? In lontananza? Con quello là. No, con questo qui è il Proxel, non è l'MB+5. Sta salendo la propagazione. Sì, è una propagazione, è stata tutta la mattina, poi era pomeriggio sera, infatti anche il capotente, quando c'era qualche telefono, alle volte me lo copriva, perché mi aveva anche fatto il numero 5, la propagazione, e da lui mi aveva contato sì, per cui me lo copriva. Quindi, sono un genio, e tanto mi ascolti. Sei incomprensibile, devi abbassare, se no non ti capiamo. Sono incomprensibile, qui si vede il suffisso. Aspetta, hai ragione, ho portato un po' con fuori, hai ragione. Sono ritornato giusto, ho toccato il potenziometro con il movimento delle mani, senza accorgermene già. Ecco, ma non si capiva nulla. Adesso sì, adesso sei tu. Avanti Eugenio, dove stai andando? Questo che stai usando è il Proxel con le Senope. Appa. Va bene, un bel abbinamento, lascialo così. Ho ripreso, signori. Ahia, non si vede. Avanti. Non ho ascoltato il discorso perché mi sono staccato ed ero giù, Ok, ho sentito Claudio, ciao Claudio, bene scozzolato. Neanche io ho sentito solo a Giulio che non capivo, stava dicendo c'era il microfono trovato, che aveva il telefono, che mi ha mandato un messaggio. Ho preso di Orbi a chiamarlo, e mi diceva che mi tocca, adesso sto aspettando che mi chiami mio cognato, non si vede. Perché è mancato materiale, non vorrei che sia alle 3 devo andare da Roberto, mi devo ritirare la scrivania, non vorrei che devo andare a Ovvio, non si girano un bel balle, vabbè, aspetta un attimo, riprendete un secondo, arrivo subito. Buona gala. Vabbè, se c'è qualcuno che mi può registrare, che mi voglia ascoltare, che voglia ascoltare come esce questo microfono, per rendermi conto, oppure lo voglio provare sul Galaxy, vediamo un pochettino, a vedere come va. Ma cosa vuoi fare? Vabbè, oggi, mi senti? Vabbè, dai. oggi chiama un attimo. Ciao Massimo. Già ti ho salutato io, ti sei dimenticato. Ciao oggi. Ciao, ciao, buongiorno. Gianni, mi sta conoscendo! Ha detto di chiamarlo! Ho capito, giusto? Di chiamarlo, ha detto, al telefono. Gatta gatta, va bene, ok. Riprendi Giulio. Siamo al telefono! Ah, ok, andrà bene. Sì, sì, sì, e tu oggi? Arrivato a casa? Tu ti ho telefono, so. Andrà bene, ok, a dopo, ciao. Sono rientrato, ma devo uscire, dai, devo uscire, devo andare al negozio a ritirare il pane. Ci sentiamo eventualmente più tardi o stasera. Ciao Massimiliano, Gianni, Claudio, Natalino e tutti gli amici, e Franco California se ancora all'ascolto. Dai, chiudo, devo andare al negozio, ok? Ciao Giulio, ciao, sono tutti al telefono, tanto là, ci sentiamo, io anch'io mi sposto, là, ciao. Ciao, ciao Massimiliano, troppo poco qua da Giglio, è troppo poco, bello, anche esteticamente è bello, là, una, di lusso veramente. Già va bene, per divertimento, capito, capisci me oggi. Già lo credo, Massimiliano, ne abbiamo parlato stamattina anche con Massimiliano, adesso che siamo soli. Te lo posso dire, io non perché sei davanti, però ho sottolineato che tu ce l'hai quel tipo di radio e ben venga, ci mancherebbe altro, però la sai usare quando si deve usare, non come fanno certe persone che la usano nel QSO locale eccetera, così è solo fare casino e basta, ma tu la sai usare, non ti voglio dire niente di più, ma non perché sia davanti, ma so benissimo che ti sai comportare, insomma, ecco. Grazie per tutto questo, Massimiliano. Alle prossime, vado a ritirare il pane. Dai. Ciao, ciao, Massimiliano. Ok, ciao Giulio, ci sentiamo stasera. Là. Ok, fai le commissioni che devi fare. Ciao, ciao. Va bene, dai. Grazie per aver soluto. Alle prossime. via, ciao Claudio, ciao. Luca, ci sei ancora? Hai visto, voglio fare chi di via Loisi. Cambio. Un bel forte, un bel. Cava. va bene così, dai. Grazie Luca, che Dio ti rubaghi e sotto i saluti e fortuna. Ah! Il Dio ti rubaghi e sotto i saluti e fortuna. Via. Vabbè, chiudo che devo cucinare Luca. Il passaggio è interessante che non si abbassi. Adesso mi copro quella bomboletta là e gli faccio per i ritocchi, che sono pignolo io. Diciamo che è semi nuovo, non è nuovo nuovo nuovo, comunque già va bene, dai, va bene. Scappa, ti ringrazio Luca. Sì, figurati, ciao già. A buon rendere.